sempre 17 novembre, domenica 17 novembre, sempre la Biennale, così come un po' un'occasione persa proprio per la non disponibilità in rete dei video è stata l'installazione Disobedience Archive, di cui ho parlato poco fa, straordinaria invece per sotto tanti punti di vista, anche solo per la partecipazione delle persone, impressionante. È questa installazione che si chiama Mapping Journey di Bukhra Khalili, un artista marocchino che ha disseminato un'intera area dell'arsenale di video in cui i migranti di ogni parte del mondo raccontano il loro viaggio descrivendolo su una mappa. Persone adulte, ma anche bambini che raccontano i loro viaggi, raccontano soprattutto la dimensione economica come principale ostacolo, principale barriera, oltre a tutte le barriere fisiche che incontrano. Poi naturalmente ci sono anche risvolti politici, cioè ci sono anche i viaggi per aggirare i checkpoint intorno alla città di Gerusalemme, per esempio. Ci sono però anche aspetti che sfuggono alla narrazione comune, per esempio il racconto molto molto candido di una bambina che dopo varie peripezie arriva in Italia, dove impara l'italiano, riesce a integrarsi, però tutto sommato vuole andare via dall'Italia perché la sua destinazione finale fin dall'inizio era la Norvegia, e racconta quindi qualcosa che mediaticamente potrebbe essere strumentalizzato, però per fortuna qui invece siamo in una grande mostra d'arte contemporanea e siamo lasciati da soli di fronte a questo racconto disintermediato dalla strumentalizzazione mediatica e politica, e quindi proprio per questo ne veniamo fuori con una notizia, anzi con molte notizie.